Per prima cosa, mettetevi comodi. All'inizio è meglio che vi sdraiate sul vostro letto o su di un divano, con le gambe e la testa in posizione comoda. Assicuratevi che mentre vi rilassate, sciogliendo i muscoli, la testa rimanga sorretta, in modo che non possa assumere una posizione scomoda. Non c'è bisogno che alcun muscolo sia in tensione per mantenere la posizione. È consigliabile che la stanza sia in penombra. Staccate il telefono per evitare distrazioni. Ora siete pronti per cominciare. È la terza parte di questa nuova settimana di Eclettica, settimana in cui ci sono in palio i biglietti per i concerti che sta per fare in Italia Micah P. Hinson a partire dal 30 a Torino allo Spazio 211, il 1 di febbraio poi a Firenze al Sintetica, il 2 a Ravenna al Bronson e il 6 a Milano alla Casa 139. Per vincere uno di questi biglietti scrivete a giulia@radiorockfm.com. Se invece volete altri dettagli sulla trasmissione, come per esempio riuscire a sintonizzare il vostro decoder satellitare per sentirla anche in zone non coperte dal segnale terrestre, fatelo andando su myspace.com/eclettica, dove vi si racconta tutto anche per quanto riguarda il podcasting, ovviamente. Stizzita per la scemenza dei suoi stessi oracoli e per l'ingenua credulità dei greci, la sacerdotessa di Delfi, Pannichis XI, lunga e secca come quasi tutte le pizie che l'avevano preceduta, ascoltò le domande del giovane Edipo, un altro che voleva sapere se i suoi genitori erano davvero i suoi genitori, come se fosse facile stabilire una cosa del genere nei circoli aristocratici, dove, senza scherzi, donne maritate davano a intendere ai loro consorti, i quali peraltro finivano per crederci, come qualmente Zeus in persona si fosse giaciuto con loro. Questo era l'incipit della Morte della Pizia di Friedrich Dürrenmatter. A farmi aggiustare il volante non mi domanda né soldi né grazie né niente che tanto di là si vede la branda occupata dal sonno che ha. Si maticanda paie, si maticanda a chi canda paie, si maticanda paie, si maticanda paie. Infine pochissimo importa se l'ha qualche donna, ha preso alle stelle una musica che non darà a nessuno il permesso di un ballo con lei e gente per cui le arti stanno nei musei. Si navicanda paie, sima di canda, ma chi canda paie, sima di canda paie, sima di canda, ma chi canda paie, sima di canda paie, sima di canda, ma chi canda paie, sima di canda paie, sima di canda, ma chi canda paie. Thank you. The battle for Helm's Deep is over. The battle for Middle-earth is about to begin. Profumo di Eclettica. Penso avrete letto nei mesi scorsi come gli Avion Travel, dietro anche l'aiuto sotto la forma di direzione artistica da parte di Paolo Conte, stavano lavorando appunto ad un nuovo disco tutto fatto di cover di Paolo Conte stesso. E la terza parte di Eclettica si è appunto aperta con un brano degli 11 che gli Avion Travel hanno rifatto, la numero 10 nell'ordine che loro hanno scelto, che è anche quella più difficile da pronunciare, un po' ci tento visto che ci ha tentato un campano, un lombardo dovrebbe riuscire a pronunciare il dialetto cuneese, no? Sim di can da paie, siamo dei cani da pagliaio. Questo dovrebbe essere più o meno il titolo, anche perché poi ho delle lontane origini in un ramo del mio albero genealogico che arrivano proprio da quelle parti, però sono talmente lontane che non penso di aver dato nessun riscontro pratico di questa cosa. Comunque è il titolo del brano, che ovviamente trovate scritto correttamente, all'interno delle playlist di Ecletica, che ha aperto questa terza parte, che poi è proseguita con la riscoperta delle vecchie playlist di Ecletica. Quella per esempio di quest'oggi era a cavallo fra il 1997 e il 1998. Vi ricordate degli Scott Four, di quanto si faceva parlare di loro e poi puff, sono spariti? Succede a tanti, così. Noi oggi ce li siamo riscoltati appunto grazie a questo piccolissimo spazio che ci permette di fare dei salti indietro nel tempo. Invece, ritornando ai giorni nostri, qua in Ecletica ci ascoltiamo un estratto dal disco di remix che The Television Personalities, ovvero sia Daniel Tracy, ha fatto uscire di una serie di sue tracce. Questa è You Kept Me Waiting Too Long, Long, Long, Long, Long, Long, Long, Long, Long. Over. Do we leave Middle Earth to its fate? Do we let them stand alone? Thank you. scars. Yes, we all feign a laugh. We all sigh in the dark. Get cut off before we start. And as the first act talk to quiet my fears, could you pull me aside just to acknowledge that I've tried? And as your last breath begins, content. Thank you. come inizia intimo e come finisce sgangherato, questo brano, questo lunghissimo brano che spero vi sia piaciuto, non al suo primo passaggio all'interno delle playlist di Eclettica, è entrato nelle playlist di Eclettica dopo che sono andato a vedermi Short Bus al cinema, un brano originariamente di Scott Matthew. Io mi ricordo la promessa che avevo fatto di farvi ascoltare l'edizione originale, tutta acustica, molto più corta, però fino ad oggi ci siamo ascoltati la versione della Hungry March Band con la voce di Justin Bond, che fra l'altro recita se stesso all'interno del film. In the End è il titolo del brano che vi siete ascoltati. Siamo qui arrivati quasi alla fine della terza parte di Eclettica, non prima di avervi ricordato il mio indirizzo di mail, giulio@radiorockfm.com, per iscrivervi alla mailing list di Eclettica. E a parte giulio@radiorockfm.com, l'altro indirizzo da ricordare per quanto riguarda chi ascolta Eclettica è myspace.com/eclettica, dove se volete potete lasciare un segno del vostro passaggio, nel caso vogliate che quel segno venga visto da tutti, anziché scrivere privatamente al già citato indirizzo di mail, e nel caso vogliate ritrovare informazioni per esempio sui podcasting oppure anche su come sintonizzare via satellite il vostro decoder per ascoltare Rock FM. Chiudiamo con i Cold War Kids, che tornano dopo parecchio tempo all'interno delle playlist di Eclettica. Ci volevo così rimettere dopo un po' di tempo Hang Me Up to Dry all'interno di quelle playlist. Splashing around in the muck and the mire. Eclettica. Fine della terza parte.